Liberi Dentro ed Uradio, il programma che fa da ponte tra il carcere e la città. Martedì 22 giugno, buongiorno e bentornati a tutti i nostri ascoltatori sempre su Liberi Dentro ed Uradio e TV. Buongiorno anche alla mia collega Antonella Cortese. Buongiorno Caterina, buongiorno a tutte e a tutti. Siamo sempre in onda su Radio Città Fujiko, Lepida TV canale 118 e Teletricolore. Il nostro programma, sempre lo ricordo, fa da ponte tra carcere e città e quindi io inizio con le notizie di cronaca sociale che in qualche modo riguardano sempre il mondo carcerario ma possono essere interessanti per tutti. Infatti per oggi la notizia la leggo da Il Giorno, firma di Manuela Marziani: i cani entrano in carcere e fanno da insegnanti ai detenuti. Dunque, è successo che nella casa circondariale di Torre del Gallo, che ospita 720 detenuti suddivisi in due padiglioni, è stato presentato questo innovativo progetto denominato Qua la Zampa, fortemente voluto dalla direttrice del carcere di Pavia Stefania D'Agostino, dal direttore generale dell'ATS Mara Azzi e dall'ex garante provinciale dei detenuti Ivana Charrier, in collaborazione con la scuola di cinofilia Il Biancospino di Casteggio. È un progetto che ha permesso la costruzione nell'area di intercinta esterna all'istituto penitenziario di uno spazio di accoglienza stabile di due cani, per adesso, provenienti dal canile di Voghera, e anche l'attivazione di un percorso di educazione cinofila per i detenuti. Perché? Perché tutto questo è finalizzato all'ottenimento di un patentino di educatore, usufruendo poi di una borsa lavoro. È un progetto davvero innovativo, interessante, stimolante. Senti, siccome sappiamo quanto sia difficile l'ingresso all'interno delle case circondariali degli animali, ci saranno sicuramente degli istruttori cinofili, quindi? Sì, certo. Gli istruttori della scuola cinofila sono responsabili del progetto educativo, che prevede un impegno quotidiano da parte dei detenuti nella cura e nell'educazione dei cani. Quindi sappiamo che il cane ha bisogno tutti i giorni di cura e quindi questo è una cosa che dovranno fare le persone detenute. Mentre le cure veterinarie sono garantite invece dall'area veterinaria dell'ATS di Pavia, guidata dalla dottoressa Gabriella Gagnone. È sicuramente importante che le persone detenute possano curare un animale, è una cosa molto importante secondo me dal punto di vista proprio affettivo. Ma quante persone è rivolta a questa opportunità? Allora, attualmente sono tre i detenuti che si occupano tutti i giorni dei cani e che frequentano regolarmente il corso di educatore cinofilo. Le competenze che acquisteranno durante il corso offriranno loro, come dicevo prima, un'opportunità di impiego dopo la scarcerazione. Ma vorrei ricordare anche questo, che il desiderio di avere cani in carcere è grande, soprattutto per le persone prive della libertà personale che prima un cane lo avevano. E forse il primo caso di colloquio detenuto cane, permettetemi il termine, quello più famoso in Italia, è quello che vide negli anni di piombo, nell'86, il protagonista, ecco, Sergio Segio, militante dell'organizzazione armata di estrema sinistra Prima Linea, della quale fu anche dirigente e comandante militare, l'incontro con il suo cane Igor. Questo incontro avvenne nel febbraio dell'86 nel cortile dell'aula bunker di Milano, dove era in corso il processo d'appello a Prima Linea. Segio fu autorizzato dal giudice Guicciardini, un animalista convinto e anche padrone lui di un cane, a rivedere Igor dopo 8 anni, il tempo della latitanza di Sergio Segio. Ricordo che questo progetto è finanziato da Fondazione Banca del Monte di Pavia e Fondazione UBI di Milano e promosso dall'Associazione Volontariato Amici della Mongolfiera di Pavia, che da anni collabora con la casa circondariale in questione, attivando laboratori interculturali e servizi di assistenza per detenuti stranieri. Bene, benissimo, una bellissima attività. Restiamo con Eminem? Restiamo con Eminem e ascoltiamo The Real Slim Shady, che è stata la prima canzone del rapper ad arrivare prima in classifica in molti paesi ed è anche stata oggetto di dure critiche, perché Eminem fa duri attacchi alle star più famose dello show business in questa canzone. E vi racconto anche una curiosità: ovviamente il suo nome Eminem adottò il nome d'arte, diciamo, dalle iniziali del suo nome, Marshall Mathers. Alcuni pensavano che fosse il nome delle Eminems, le caramelline, invece no, erano le due iniziali messe insieme. Ascoltiamola. You never seen a white person. worse than before. Jaws all on the floor like Pam, like Tommy just burst in the door. We started whooping her ass worse than before. They first were divorced, sewing her over furniture. It's the return of the... Oh, wait, no, wait, you're kidding. He didn't just say what I think he did he? And Dr. Dre said... Nothing, you idiots. Dr. Dre's dead. He's locked in my basement. Feminist women love Eminem. Chicka, chicka, chicka, Slim Shady. I'm sick of him. Look at him walking around, grabbing his you-know-what, flipping the you-know-who. Yeah, but he's so cute, though. Yeah, I probably got a couple of screws up in my head loose, but no worse than what's going on in your parents' bedrooms. Sometimes I want to get on TV and just let loose, but can't. But it's cool for Tom Green to hump a dead moose. My bum is on your lips. My bum is on your lips. And if I'm lucky, you might just give it a little kiss. And that's the message that we deliver to little kids and expect them not to know what a woman's clitoris is. Of course they're gonna know what intercourse is. By the time they hit fourth grade, they got the Discovery Channel, don't they? We ain't nothing but mammals. Well, some of us cannibals who cut other people open like cantaloupes. But if we can hump dead animals and antelopes, then there's no reason that a man and another man can't elope. But if you feel like I feel, I got the antidote. Women, wave your pantyhose, sing the chorus, and it goes. I'm Slim Shady, yes, I'm the real Shady. All you other Slim Shadys are just imitating. So won't the real Slim Shady please stand up? Please stand up, please stand up. Cause I'm Slim Shady, yes, I'm the real Shady. All you other Slim Shadys are just imitating. So won't the real Slim Shady please stand up? Please stand up. Will Smith don't got a cuss in his raps to sell records. Well, I do, so fuck him and fuck you too. You think I give a damn about a Grammy? Half of you critics can't even stomach me, let alone stand me. But Slim, what if you win? Wouldn't it be weird? Why? So you guys can just lie to get me here? So you can sit me here next to Britney Spears? Your shit, Christina Aguilera better switch me chairs so I can sit next to Carson Daly and Fred Durst and hear him argue over who she gave head to first. Little bitch put me on blast on MTV. Yeah, he's cute, but I think he's married to Kim. I said download her audio on MP3 and show the whole world how you gave him an MBD. I'm sick of you little girl and boy groups, all you do is annoy me, so I have been sitting here to destroy you. And there's a million of us just like me, who cuss like me, who just don't give a fuck like me, who dress like me, walk, talk, and act like me, and just might be the next best thing, but not quite me. I'm Slim Shady, yes, I'm the real Shady. All you other Slim Shadys are just imitating. So won't the real Slim Shady please stand up? Please stand up, please stand up. Cause I'm Slim Shady, yes, I'm the real Shady. All you other Slim Shadys are just imitating. So won't the real Slim Shady please stand up? Please stand up, please stand up. I'm like a head trip to listen to, cause I'm only giving you things you joke about with your friends inside your living room. The only difference is I got the balls to say it in front of y'all, and I don't gotta be false or sugarcoated at all. I just get on a mic and spit it, and whether you like to admit it, I just shit it better than 90% of you rappers out here. E rieccoci, bentornati sempre sulle note di Eminem, sul nostro programma Liberi Dentro e Duradio TV. Oggi la nostra finestra sul mondo dall'Asia ce l'apre Antonella. Di cosa ci parli oggi? Oggi vi parlo di una questione che in realtà coinvolge un po' tutti, coinvolge molti paesi occidentali, ma oggi parleremo nello specifico di un paese estremo orientale che è la Cina. La Cina è alle prese con un problema che affligge, come vi dicevo, un po' tutti, che è il calo demografico. Anche in Italia, come sai Caterina, abbiamo lo stesso problema. La nostra popolazione non cresce ma invecchia. Infatti l'età media è di circa 48-50 anni. Però, tornando alla Cina, ultimamente il Partito Comunista ha annunciato che porterà a 3 il limite dei figli consentiti ad ogni coppia. La notizia ha lasciato un po' tutti perplessi, perché se l'abbandono già nel 2016 della politica del figlio unico, che era servita nei decenni passati a contenere la crescita della popolazione, non è bastata a far aumentare le crescite, cioè le nascite in questo caso, non si vede perché questa nuova concessione, che cala poi dall'alto, dovrebbe cambiare un po' la situazione. Dopo settimane di rinvii e di iscrizioni, a inizio maggio abbiamo saputo che i cinesi sono 1.412 milioni. La Cina resta sempre il paese più popoloso del mondo, ma la crescita demografica dell'ultimo decennio è stata la più bassa dagli anni 50, solo 5,38%. L'anno scorso, per dirti, i nuovi nati sono stati solo 12 milioni contro i 14,6 del 2019, quindi un meno 18%, che sembra segnare un declino inarrestabile del tasso di natività, visto che ogni donna cinese partorisce oggi in media solo 1,3 figli, molto meno dei 2,1 necessari a mantenere stabile la popolazione. Allora, siccome c'è sempre un effetto domino in queste cose, in questi eventi sociali, quale sarà l'impatto di questa decrescita demografica in un paese colosso per diversi motivi come la Cina? Guarda, i dati del recente censimento confermano le precedenti proiezioni, secondo cui la forza lavoro cinese ovviamente diminuirà nel prossimo decennio. Una tendenza che potrebbe indebolire la produttività a lungo termine nella seconda economia mondiale, così come la domanda interna e l'innovazione. Questo è il problema che affligge e affliggerà d'ora in poi i leader di Pechino. E la soluzione decisa da Pechino trascura il nodo centrale della questione. Da tempo ormai l'andamento delle nascite è slegato da quello che dice la legge. Se per anni c'è stata la politica del figlio unico che ha provocato aborti forzati, infanticidi e abbandono di neonati, oggi avere un solo figlio o non averne affatto per molte coppie è una scelta. Esattamente come succede in Italia, Corea del Sud, Giappone, per citare paesi dove nascono meno bambini. La bassa natalità è dovuta sia a motivi economici, ma anche alla mancanza di aiuti dello Stato, sia al fatto che ormai anche in Cina il livello di istruzione e di reddito delle donne sono inversamente proporzionali alla loro aspirazione di avere figli. Inoltre, sempre più millennial, cioè i nati dopo il 1981 e appartenenti alla generazione Z, quelli nati tra il 95 e il 2009, rifiutano il modello di vita tradizionale e aspirano a un'esistenza senza matrimonio, senza mutuo e senza figli. Ma Antonella, se il governo cinese è tanto preoccupato che per il calo delle nascite, perché portare il limite da 2 a 3 figli e invece non eliminare del tutto questo limite, lasciare libere le persone di avere quanti figli vogliono e possono, insomma? Qui apre una questione molto delicata, Caterina, infatti se lo sono chiesti in molti, e la risposta probabilmente è che togliere il limite impedirebbe allo Stato di esercitare il controllo demografico nelle regioni abitate dalle minoranze, dove invece l'andamento delle nascite è diverso che nelle zone urbane. In particolare la preoccupazione delle autorità è limitare i diritti riproduttivi degli uiguri, gli uiguri dello Xinjiang, già sottoposti a dura repressione. Gli uiguri sono una etnia turcofona di religione islamica che vive nel nord-ovest della Cina, soprattutto appunto nella regione autonoma dello Xinjiang, insieme ai cinesi Han. E il termine uiguri significa alleati, coloro che sono uniti, venne coniato per indicare un popolo che si insediò nell'odierna Mongolia. Ma oggi, a causa di grandi mutamenti storico-politici, accaduti poi purtroppo nel corso della storia, gran parte degli uiguri si trova a vivere in un territorio cinese con tutte le difficoltà del caso. Antonella, grazie per questo approfondimento anche storico-geografico e ti chiedo di lanciare la canzone a metà della nostra mattinata. Caterina, oggi restiamo in Cina e ascolteremo la canzone che si chiama You Can't Meet di Tong Li. Ascoltatela. 起越南风采一散，心比天远高。声微下间，风流灵巧招人怨，手摇多音回傍声。 Rieccovi, bentornati sempre su Liberi Dentro Edu Radio. Siamo con la nostra Rosanna Sirignano, formatrice ed esperta di spiritualità islamica. Buongiorno e bentornata. Grazie, grazie. Allora, insieme a te Rosanna, finora abbiamo visto alcuni elementi fondamentali della cultura e della spiritualità islamica. In particolare, le ultime volte abbiamo indagato insieme i testi, per esempio come il Corano, oppure i luoghi come la moschea, ma anche i simboli di abbigliamento come il velo. Oggi affrontiamo invece una parola che è anche un nodo culturale di significati, la parola amore. Sì, affrontiamo la parola amore che in arabo si dice in 100 modi diversi, o meglio, insomma, sono almeno 100 se non di più le sfumature dell'amore. Ricordiamo che la lingua araba è un po' la lingua dell'eloquenza e quindi è una lingua che ha moltissimi lemmi, ha moltissime parole per indicare uno stesso concetto. E diciamo che la parola più comunemente che viene resa per amore è la parola hub, ma ce ne sono anche tante altre, magari ne possiamo dire qualcuna. Esatto, ritornando al fatto che hai detto che ci sono 100 modi per dire amore, dimmi qualcosa su questo, qualche parola. Ecco, allora ne prendo, cominciamo proprio da hub, che diciamo può significare, la parola hub può significare seme di una pianta nel deserto, quindi l'amore come una pianta, vita, acqua, nel bel mezzo del deserto che invece appunto è privo di acqua, è privo di colori. Può significare candore immacolato dei denti, contenitore e altro ancora, quindi diciamo che l'etimologia è molto difficile da ricostruire. E questo è l'amore per eccellenza, è l'amore dei poeti erranti e delle principesse abbandonate, è l'amore dei monaci del deserto, e così via. E poi ne abbiamo altri, alcuni di questi nomi, come per esempio Al-Wadud. Al-Wadud è anche uno dei 99 nomi di Dio, e infatti corrisponde a quello che nel Corano viene detto in Sura 11, versetto 90: il Signore è compassionevole, in verità vi vuol bene. Il Signore perdona e vuol bene. Questo Wadud vuol dire voler bene, ma può essere anche la longanimità, quindi l'amore come, come affetto, ecco, come il desiderare il bene di qualcun altro, perché ovviamente il nome divino in qualche modo poi riflette anche quelle che sono le qualità e i valori a cui tende l'essere umano. Bellissimo. E cosa ti viene in mente come brano musicale legato alla parola amore per oggi, per noi? Beh, sicuramente Amore del pianista giapponese Sakamoto. Thank you. Rieccovi, bentornati sulle note di Sakamoto, Amore, lanciato da Rosanna. E c'è qualche passaggio testuale che ci vuoi citare dalla Sunna o dal Corano riguardo proprio all'amore? E poi volevo anche chiederti, tu come vivi nella tua vita di fedele, ma anche di donna, il valore di questo sentimento? Beh, quando ho sentito, ecco, testo Corano, Sunna, sono andata sempre verso un testo, secondo me, ecco, islamico a tutti gli effetti, ma che non è contenuto né nel testo sacro dell'Islam, appunto il Corano, né nella Sunna, che è l'insieme delle tradizioni, dei detti e dei fatti del profeta Muhammad, ma bensì un testo di poesia. È come non pensare al grandissimo poeta mistico Rumi, che arabo non era, era persiano, ma che ha cantato, ecco, l'amore nel senso più assoluto. E quindi volevo leggere un passo dal Masnawi, il libro secondo, che appunto è uno dei passi che parla d'amore, e dice: l'amore è manifesto e l'amato è nascosto, l'amico è fuori dal mondo, ma il suo fascino è nel mondo. Rinuncia a vane credenze. Gli amori provati per ciò che è dotato di forma non hanno come oggetto la forma esteriore o il volto della dama. Oggetto dell'amore non è la forma. Si tratti di amore per le cose di questo mondo o per quelle dell'altro mondo. E quindi con questo, secondo me, questo sintetizza anche il mio modo, ecco, di vivere l'amore, che è amore universale, quindi a prescindere da tutto, perché l'amore, se non è inclusivo e se non è esteso, non è amore, perché è limitato. L'amore non può essere limitato, è amore per l'essenza e soprattutto è uno stato dell'essere piuttosto che qualcosa che si dà e si riceve. Grazie, grazie mille Rosanna. Dacci un'anticipazione sulla prossima pillola, quale altra parola affronteremo? La prossima volta parleremo appunto di lingua araba, che abbiamo già cominciato a gustare quando abbiamo parlato di Corano e anche adesso con questo riferimento ai 100 nomi dell'amore. Grazie Rosanna. Ora un brano lo lancio io, legato all'amore, mi viene in mente Birdie. People help the people. Ascoltiamola. God knows what is hiding in those weak and drunken hearts. Guess he kissed the girls and made them cry, those hard-faced queens of misadventure. God knows what is hiding in those weak and sunken lines. Fiery throngs of muted angels giving love but getting nothing back. Oh, people, help the people. And if you're home, give me your hand and I'll hold it. People, help the people. Nothing will drag you down. Oh, and if I had to bring, oh, and if I had to bring, I'd be cold as a stone, rich as a fool, it turned on those good hearts away. Just a lonely nurse came knocking, no one Bentornati, vi salutiamo e ci diamo appuntamento sempre a domani con un nuovo ospite. E la nostra rubrica a seguire, Oggi parliamo di, sarà con Altro diritto, quindi ci rivedremo tra poco sull'Epida TV se ci state seguendo alle ore 13.30 oppure alle 17 su Teletricolore e alle 6.30 del mattino sempre sulla radio. Ringrazio Pasquale Pitaniello e Antonella Cortese in regia con me alla conduzione di queste puntate e al montaggio. Ci rivediamo domani, un saluto e a domani. Liberi Dentro e Duradio, il programma che fa da ponte tra il carcere e la città.